24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo come la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo elettori il bagno alla turca. Andiamo al voto. Voglio una prova per capire come mai, se gli italiani pretendono e votano di nuovo un governo così, allora noi non siamo adatti a questo paese. Quindi vi sciogliete? Io personalmente, se perdiamo le elezioni, non ho assolutamente più voglia di continuare, ma io voglio una prova. La prova, voleva la prova, vuole la prova Beppe Grillo. Che farà? Guardate, cari italiani, buongiorno intanto alle 6:32 minuti. Oggi andremo avanti fino alle 9:45 per raccontare ovviamente il dopo elezioni. Che farà Beppe Grillo? È quasi più interessante del che farà Matteo Renzi dopo il trionfo del Partito Democratico. I dati non sono ancora definitivi, ma siamo attorno al 41% e il Movimento 5 Stelle attorno al 21-21,5, doppiati. Che farà? Secondo Repubblica, Beppe Grillo ieri si è rinchiuso in un silenzio attorno a Casaleggio a dire sono depresso. Oggi Daniele Martinelli, che è un blogger del Movimento 5 Stelle, lo avremo ospite alle 8:30, ha twittato: volevamo o noi o loro, gli italiani hanno scelto loro. Insomma, aria da depressione, come dire, da dire Beppe Grillo dice io non ho più voglia se perdo queste elezioni, ma voglio la prova. La prova nei numeri c'è. Buongiorno comunque, alle 6:33 minuti siamo qui, Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia. La 56esima settimana decisiva per la riforma elettorale si può ufficialmente aprire insieme alla 56esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Forza, forza, aperta ufficialmente come il nostro Parlamento. Si può aprire, si può aprire. Cari italiani, il caffè volentieri a tutti. Allora vi do il numero per i vostri messaggi: 349-238-6666. E vedete subito la gente si scatena, non ho fatto in tempo. Uno ci scrive: Grillo fa cri cri, cri cri. E Silvio fa du-du, du-du. Vabbè, insomma, è che si sa, è sempre così il giorno dopo le elezioni: c'è chi vince, c'è chi perde, c'è chi è gioioso, c'è chi è un po' depresso. C'è chi non gliene frega niente, va avanti come se la vita fosse uguale a quella di ieri e quella di domani. Intanto voglio salutare Carlo Rienzi. Buongiorno Rienzi. Buongiorno, buongiorno a voi. Il Codacons come si è svegliato dopo queste elezioni? Ma abbastanza bene, perché mi sembra che l'indicazione sia uniforme, cioè ha vinto intanto l'astensione come sempre. Vabbè. E Renzi ha preso il 24% dei voti complessivi degli italiani, sì. Però ha vinto bene tra quelli che hanno votato. Tutti hanno espresso una volontà di cambiamento, cioè tutti gli italiani sono stufi, quindi no all'Euro, Lega, no ai partiti, Grillo, sì. No alle vecchiume del PD, dei vari Bersani e compagni per il partito personale di Renzi. Quindi adesso abbiamo una possibilità che deve prescindere secondo me dalla destra, quindi attenzione Renzi, di fare un governo di novità. Naturalmente il problema è che Grillo faccia un passo indietro e che i 5 Stelle, gestiti in un modo diverso da come l'ha fatto Grillo fino ad oggi, che ha portato all'insuccesso, siano a sostegno di un governo di Renzi per riforme effettive immediate. E infatti Renzi pare che abbia detto così: ora inizia la rottamazione vera, ma non delle persone, ma delle cose che non vanno in Italia. L'altro ne è forte di questo 41%, può fare più o meno ciò che vuole. No, non ciò che vuole, però insomma è legittimato moltissimo. Saluto Alessandro Giglioli, buongiorno, il suo piovo onorale. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Alessandro Giglioli, secondo me è, non è che non si sa se è contento o no, ma è l'infibrillazione, la uso io la parola. No, io sono soprattutto invidioso di Rienzi che a quest'ora del mattino, dopo un risultato così complesso, è in grado di elaborare... Ha visto che, analisi. ...sistematica e così precisa dei dati elettorali, mentre io un po' perché ho fatto tardi ovviamente per lavoro e un po' perché il dato delle elezioni effettivamente è inaspettato, sì. Un'elaborazione così sistematica non riesco a farla, avanzo delle ipotesi, delle tracce, dei pezzi, ma insomma, invece Rienzi al Codacons hanno tutto già scolpito nel marmo su come cosa sarà in Italia nei prossimi mesi. Io vedo un bel po' di casino, vedo tante come dire, Renzi che ha svuotato l'elettorato del suo governo, gente che ha avuto paradossalmente più paura che speranza, cioè paura di Grillo, e quindi ha portato di là i voti. Sono tutte delle ipotesi che si fanno, perché poi bisogna Tutti, la sicurezza di ricorrere alla Democrazia Cristiana, no? C'è sempre. No, ma c'è anche quello, sono tante cose. Sono elezioni, al di là, poi uno può gioire o deprimersi, però sono elezioni interessantissime in termini di eziologiche, no? Cioè di cause che hanno portato ai flussi. Poi una lettura, tante letture credo che debbano farsi. Chiaro. Allora, comunque, i dati, perché molte persone non li sanno. Allora, il PD è sul 41%, non sono ancora definitivi, ma quasi, perché sono ormai 60.000 su 61.592 scrutinati, e quindi insomma, ormai siamo alla fine. 41% PD. Al 21 il Movimento 5 Stelle, dunque più del doppio, il doppio più o meno. Forza Italia al 16,7 e anche qui c'è un Berlusconi, dice un disastro, insomma, anche qua depresso. La Lega al 6,26. Il nuovo centrodestra, quindi Alfano, al 4,36 supera il quorum, dovrebbe superare. Ecco Tsipras, perché dicevo in febbraio? Perché Giglioli al 4,03, siete lì a... Spero che ce la faccia, sì, certo. Sì, certo, a contare, certo, a contare i punti. Sono lì a proprio... se la battono per 50 voti, tra la zia e il cugino. Mentre Fratelli d'Italia pare che sia al 3,63, dunque sotto il quorum del 4%. Però la questione è questa, intanto, che dovrebbe fare Beppe Grillo? Allora, Rienzi, che dovrebbe fare Beppe Grillo? No, intanto però non hai dato i dati dell'astensione, che non è corretto. Sì, vabbò, adesso li dai. Perché credo 64% gli italiani che non sono andati a votare. No, dai, un po' adesso io non lo so, ma è un po' meno. 56, 64, 66, 56-64 fa più 100. Scusa, sì, vabbè, insomma, 64-66, ma a quest'ora voglio pretendere troppo. 56 sono andati a votare. Scusa, 54. Uno su due, quindi, dai, uno su due più o meno. La metà degli italiani non è andata a votare. Io credo che gli italiani vogliono credere in una persona. Guardate che è successo, dopo tanti anni che hanno creduto in Berlusconi, il grande imprenditore che avrebbe fatto qua, là, eccetera. Adesso si sono buttati su altre due persone, Grillo e Renzi, non sul PD, quindi non sul Movimento 5 Stelle. Su Grillo sono andati i più giovani, quelli più incazzati, quelli che vogliono fare la rivoluzione, che sono tanti, ma che sono anche quelli che hanno paura del PD, e quindi probabilmente molti da Berlusconi saranno finiti su Grillo, questo è indubbio. Quindi c'è una, veramente, ripeto, non è che l'ho fatto in pochi minuti, ma è una uniformità di indicazione. Quindi Grillo, ripeto, deve andare un attimo indietro, fare un passo indietro. Cioè, ma che vuol dire che dal punto di vista pratico? Cosa potrebbe fare? Possibilità al partito di organizzare una forma di protesta più costruttiva. Perché protesta adesso non ha più senso continuare su questa strada che non ha avuto l'avallo. Cioè, basta il o noi o loro, perché uno io loro hanno scelto loro, esatto, se uno deve vedere. Quindi un po' più costruttivo, non so, Giglioli, che ne pensi? È possibile che il Movimento 5 Stelle, che Beppe Grillo faccia una più che una, come dire, uno scontro frontale, una proposta più costruttiva, una protesta? No, aspetta, prima devo dire una cosa, tu hai dimenticato il dato fondamentale di questi. Anche un altro ne ha dimenticato, cioè qual è? No, l'ha detto lui, devo dirlo anch'io. Qual è? Hai dimenticato il dato, Monti, anzi, scelta 5. Monti, 0,6%. un anno e mezzo fa eravamo tutti qua, noi giornalisti, qua dobbiamo fare un'autocritica anche noi, siamo in categoria, a pendere dal professore Dall'Oden taumaturgico. 0,7%, 0,7. No, infatti io l'ho scritto su Twitter, pensate che due anni fa Monti era premier. No, ma è incredibile. Cioè. È incredibile, no, a parte le battute di ironia poi. Però, no, ma non era ironica, era cioè, è incredibile cioè, come la politica trituri tutto, no? Strettura, sì, la velocità è pazzesca. Sul Movimento 5 Stelle, guarda, io credo che è evidente che a questo punto, con le attese che lui stesso aveva creato, che loro stessi avevano creato, che in parte si erano create indipendentemente da loro, è evidente che questa è stata una musata. Il problema è che non ci sono all'interno del Movimento 5 Stelle, per scelta, quegli spazi, quelle strutture, quei luoghi previsti statutariamente negli altri partiti per il famoso confronto, dibattito, autocritica, verifichiamo cosa è successo, decidiamo. Non c'è, questa roba qua non c'è da un punto di vista. E quindi questa è un'altra cosa che io guardo con molta curiosità, capire se e come si articolerà il dibattito nel Movimento 5 Stelle, dove ormai ci sono delle personalità, ci sono tanti, come dire, persone che sono emerse in questo anno, anche diverse fra di loro, ci sono dei luoghi di discussione che sono quelli della rete, ma sono del tutto orizzontali, sono del tutto reticolari, no? Non ci sono i classici luoghi di confronto. E quindi sarà in difficoltà, dice, a creare una strategia. Un'elaborazione completamente nuova, cioè l'elaborazione della sconfitta deve passare attraverso luoghi che prima non... Che sono non istituzionali, diciamo, che sono strani, che sono non previsti in qualche modo nemmeno per... No, però la mia domanda è questa, Alessandro, io vorrei capire, cioè, tu credi veramente che Beppe Grillo possa dire, come ha detto, se io perdo, basta, non ce la faccio più, non voglio più, cioè avrà ancora la... Perché, diciamocela praticamente, la gente vota Beppe Grillo, i candidati alle europee non sapevano neanche il volto... Allora la questione è se fa un passo indietro Beppe Grillo, è chiaro che... Guarda, io personalmente Beppe Grillo gli ho fatto due volte in vita mia, quindi non conosco la capacità reattiva di resilienza che ha di fronte a una sconfitta. Sarebbe pazzo se, avendo un partito che ha perso molto rispetto alle aspettative... Certo. Al 21% però, sempre. Stiamo parlando di un partito del 21%, certo. Quindi sarebbe una forza politica del 21% sarebbe folle se un progetto politico considerato di lungo termine, addirittura un cambio di paradigma della democrazia, eccetera, alla prima musata vanno tutti a casa. Non mi sembra assolutamente verosimile. Dai. Non è verosimile. Comunque staremo a vedere. E invece la questione è che deve fare Renzi, caro Rienzi. Che può fare Renzi, cioè, con questo 40%? Perché oggi il Fatto Quotidiano già scrive: le urne sono più vicine. Il problema non è tanto il 41% del Partito Democratico, che è un record incredibile, ma quanto il fatto che l'alleato di governo, l'NCD, sta al 4-5%. Cioè, come si fa a governare 40% PD e 4-1% di NCD? Forse bisogna fare o un rimpasto di governo oppure bisogna andare alle elezioni. Che farà? Secondo me, se le cose vanno come io penso e se Grillo appunto fa questo passo indietro, Renzi non solo non andrà alle elezioni, perché da Grillo sarà richiesto meno di andare alle elezioni, che è l'unico che vuole andare alle elezioni, ma anzi si rafforzerà con quel poco che gli è rimasto di alleati e con un partito 5 Stelle che avrà un atteggiamento diverso, quindi andremo avanti tranquillamente ed ha soprattutto la possibilità, se veramente vuole mantenere quello che promette, di fare alcune riforme che il suo partito non vuole, che i burocrati, gli elefanti, quelli che in questi mesi gli hanno rotto le scatole, eccetera, non vogliono fare. Quindi la situazione mi sembra molto migliore e più stabile di prima. Si sono stati eliminati questi partitini, compreso quello di Di Pietro, chiamiamolo degli ex giudici, che veramente faceva vergogna che ancora si presentassero, ma tutto il macello perché che hanno combinato. Povero il nostro amico Di Pietro, ogni tanto lo chiamiamo, no? Perché? Perché un giorno vi racconterò la mia esperienza con Di Pietro. No, che ci deve raccontare? È qualcosa di scabroso? Eh? È qualcosa di scabroso? No, quando ai tempi in cui era un partito importante e serio mi propose di candidarmi e poi prese i razzi e i scilipoti dicendo che non aveva posto. Lei adesso, gongola. Lei adesso sono battute personali, sì, sì, poi ci sono dei dettagli ancora peggiori su questo. Andiamo avanti. Mannaggia, no, no, un giorno li vorrò. Un li giorno vorrò. Vi racconto, vi faccio fare anche un po' di risate. Ma ce ne dica una, ci faccia, ci faccio sorridere. Sottoscala in zona stazione Termini. Ce ne faccia sorridere, quello che ha fatto più sorridere, dai, quello che l'ha fatta più, più ridere, su, dai, che così. No, no, perché non c'è stato poi tanto da ridere, insomma, comunque voi potete ridere, ma è stato abbastanza una cosa pesante, ma rinviamola a un'altra occasione, sembra una cosa troppo personale. Rinviamola. A questo punto, con la Lega che riafferma un'opposizione all'Europa molto forte, quindi Renzi che cosa deve fare? Deve essere europeista, ma come ha detto a parole, molto fermo nel rispetto dell'Italia, dell'autonomia italiana, eccetera, eccetera, anche perché è risultato un po' diverso quello italiano rispetto, che ne so, agli inglesi o ai francesi, dove c'è stato un macello di altro tipo. Gli inglesi, ne so, il 30% degli indipendentisti, una cosa certo, incredibile. Certo. Cioè, quindi questo deve cambiare lui da un lato, deve approfittare della sconfitta di Grillo, che non vuole più andare probabilmente alle elezioni, o se lo fa per dispetto, ma non gli andrà dietro più nessuno, e deve continuare sulla sua strada racimolando quella un sostegno che secondo me verrà da Berlusconi poi alla fine. Eccala, ecco, io li volevo un pochino arrivare. Tra l'altro, poco fa sono stati dati allora i dati sull'affluenza, 55,5%, dunque un po' più di un italiano su due è andato a votare in Italia. Poco fa ha parlato anche il leader, visto che lei era citato, il leader dell'UKIP, questo partito che in Gran Bretagna, partito indipendentista che in Gran Bretagna ha fatto il pieno di voti. Nigel, com'è che si chiama? Farage ha detto: sono molto fiducioso per il risultato, pronto al divorzio della Gran Bretagna dall'Europa. Ah, Nigel Farage, subito iniziano le prime dichiarazioni anti-europee. 24 mattino. Allora, incuriosito, sono andato su internet per vedere questo triplice omicidio contestato al comico. Nel 1988 per una lastra di ghiaccio un pulmino si è capovolto e tre persone, tra cui un bambino, hanno perso la vita. Ecco il grande assassino. Ma quando la fate finita la passe commedia? Arcimiliardari, andate a lavorare. In questa grande e molto accorata campagna elettorale non ho sentito parlare dei programmi del semestre italiano alla presidenza UE. Mi puoi smentire, grazie. Curioso aspetto, lunedì mattina, quando i trombati faranno la manfrina di presentare magari la sconfitta come una non vittoria ma a schiena dritta, dicendo che con Grillo e Casaleggio in fondo, sai, poteva andare peggio. Ciao me, da Felice Pautasso. Vabbè, Felice Pautasso, ciao. E intanto, vabbè, oggi la segreteria telefonica era più corta, comprensibilmente, insomma, non è che siamo qua a tagliarla nella notte dopo le elezioni, va bene tutto. E quindi messaggi che vanno un po' aggiornati, soprattutto a domani. A proposito di trombati, eccetera, gente che ha vinto o perso, la dichiarazione, caro Giglioli, di Rotondi. Ah no, aspetta, prima di Rotondi ti voglio dire questo: ci sono tanti messaggi di chi dice bastano 80 euro per avere una montagna di voti. Gli 80 euro quanto hanno inciso? Non lo so. Adesso ormai non è storia vecchia, Giglioli, cioè non lo so quanto hanno inciso gli 80 euro. Forza, vi risponde Alessandro Giglioli. Abbastanza, ecco, lui una risposta ce l'ha. Eccolo lì, l'accusa. Abbastanza. Se vuoi articolo anche meglio, però insomma, i tempi radiofonici dicono. Vabbè, articolo un attimo di più. Abbastanza, non soltanto come voto, diciamo così, di ringraziamento, se non vogliamo chiamarlo. Stavi dicendo voto di scambio. Però ci sono fermati in tempo. No, ma anche come segnale di, secondo alcune, di redistribuzione sociale, secondo altri di ottimismo, perché se si fa sta roba vuol dire che non stiamo andando verso il baratro come economia, quindi ci sono tante co-componenti, se posso dirlo, però complessivamente credo che abbia inciso abbastanza. Va bene, adesso ti becchi Rotondi. Eccoli. Rotondi ha detto questo: è stato un miracolo di Berlusconi che per questo merita la causa di beatificazione. Ecco. Io dico: ma Rotondi, svegliati, svegliati, è il 26 maggio 2014, le urne hanno parlato, Rotondi. Vabbè, no, comunque si beatificano i deceduti, quindi ha portato. No, per carità, lunga vita. Sentite la Serracchiani, che gongola. Ma io credo francamente che il risultato sia il pensiero migliore che possiamo affidare a Beppe Grillo. Siamo noi consapevoli della nostra responsabilità. Lui credo sia consapevole anche di un risultato che evidentemente non solo non ha premiato l'insulto, ma evidentemente anche la mancanza di idee in qualche modo. Vabbè, mancanza di idee era la domanda del pensiero a Grillo. A proposito di Grillo, beh, non hanno parlato il Movimento 5 Stelle. Sentite, io ho visto se si potessero riproporre le facce di Roberto Lombardi, ma soprattutto Nicola Morra, che erano lì gli unici che si sono, diciamo, presentati ai giornalisti. Grillo neanche un tweet ha fatto. Roberto Lombardi, sentite, quelle dichiarazioni di circostanza. Certi, quelli di cui parlavamo prima, ancora troppo esigui per fare una valutazione compiuta del voto, quindi noi aspettiamo domani, aspettiamo avere un dato certo e rimandiamo al dato certo per fare tutte le valutazioni poi politiche sull'esito del voto. Vabbè, aspettiamo un dato certo, vabbè, niente di che. Rienzi qua mi fanno notare che dicono: dite a Rienzi che in Italia si è votato molto più che in molti altri paesi, che ne so, nell'est per esempio è stato un disastro di affluenza, quindi non è che ci possiamo lamentare più di tanto. 55%. Sì, ma infatti io non mi lamento di quanti hanno votato, ma questa è un'altra prova che sono andati a votare quelli che volevano cambiare, cioè l'indicazione, ripeto, è unanime, non c'è nessuna indicazione diversa. Ciò nonostante la maggior parte ha voluto dare un segnale evidentemente con l'astensione, cioè è sempre un rifiuto, l'astensione è un rifiuto, e risponderei a questa persona che vi ha scritto in questo modo, come votare Grillo e Renzi come persona, quindi il cambiamento, e non credo che gli 80 euro siano serviti granché, è che c'è la speranza del cambiamento, cioè se non fosse stato Renzi a dargli 80 euro ma Bersani, non sarebbe servita a niente, perché sarebbe stata il regalo elettorale. Invece così è una speranza di cambiamento, perché si è accompagnata agli 80 euro un minimo di inizio di cambiare, fare il tetto agli stipendi dei manager. Cioè, attenzione, che queste cose sono quelle che ti fanno nello stomaco avere piacere, quando tu dici: ah, non prendono più 150.000, anzi 300.000 euro l'anno, e io vado a fare la fame, adesso ne pigliano 150, non è che sia poco, però è quello che ti dà il piacere sottile di dire: vabbè, allora forse questo, visto che Grillo è esagerato, lo possiamo votare, capito? Staremo a vedere. Intanto noi continueremo fino alle 9.45. Per il momento ringrazio Alessandro Giglioli e Carlo Rienzi. Stavo dicendo Matteo Renzi, no? Carlo Rienzi del Codacons, per essere stati con noi. Riprendiamo alle 7.15 con la rassegna stampa. Si aggiungerà anche Mi Seguirà, starà con noi anche Gigi Donelli fino alle 9.45. Da adesso, dalla rassegna stampa, ora il giornale radio con le ultime notizie sui risultati. State con noi, vi accompagneremo in questa mattinata. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:18, cari ascoltatori, in questa trasmissione di oggi che va avanti, lo ricordo, fino alle 9:45. Ovviamente su tutto ci sono i risultati delle elezioni europee, di cui parliamo anche nella rassegna stampa, di cui ovviamente parlano soprattutto i giornali. Tra l'altro

Assolutamente che sì. Assolutamente sì. Una pagina del giornale. Il giornale in testa alla classifica, eh. Mi sa che vincerà la classifica il premio, che daremo alla fine dell'anno. La coppa, la carta costa per l'articolo più inutile scovato sui giornali. Francesco Paolo Giordano, le 12 volte in cui i Simpson hanno previsto e anticipato la realtà, eventi futuri. In un, per esempio, si parlò dello spionaggio nel 2007 con i telefonini, e poi è arrivato lo spionaggio dell'NSA. È arrivato una volta nel 95, in un episodio ambientato nel futuro, il ragazzo di Lisa parlava al telefono con un orologio, e poi hanno fatto il telefono orologio. Ma ti rendi conto, Gigi? Di qualcosa, dillo tu, che la carta costa. Tutto un altro sguardo. Dillo, visto, guarda qua, nostro... con Homer Simpson, una pagina del giornale. Di Simpson. Ricorda vagamente altre citazioni bibliche. Vabbè. Mamma mia, le 12 piaghe dei Simpson sul giornale. Gigi Donelli rimane con noi, c'è il giornale radio. Rientriamo dopo le 8:15 con gli ospiti Mario Adinolfi, Giorgio Mulè, direttore di Panorama, e poi Daniele Martinelli, blogger del Movimento 5 Stelle, e le vostre telefonate. State con noi. 24 mattino. Sono le 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua, staremo insieme fino alle 9:45 oggi, cari ascoltatori. Con noi c'è anche Gigi Donelli, che saluto, buongiorno a tutti, ritrovato, eccoci qua, e soprattutto le vostre chiamate. Vi do il numero verde 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta a dire la vostra su queste elezioni europee. Gli ultimi dati non sono ancora quelli definitivi, ma ormai ci siamo. Il Partito Democratico è il 40,83%, dunque sopra il 40%, successo clamoroso del PD. Il Movimento 5 Stelle al 21,15%, dunque il PD che doppia in termini di numeri il Movimento 5 Stelle, mentre Forza Italia si ferma al 16,8%, la Lega al 6,17%, il Nuovo Centrodestra al 4,38% e l'Altra Europa con Tsipras al 4,03%. Queste le forze che hanno superato il 4%, dunque lo sbarramento. Che succede ora, dopo questo successo clamoroso del PD e questa battuta d'arresto, almeno in termini numerici, del Movimento 5 Stelle? Ne discutiamo con il direttore di Panorama, Giorgio Mulè, che saluto. Buongiorno, direttore. Eccoci. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Così come saluto Mario Adinolfi, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, Mario. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, intanto, la prima domanda classica è: vi aspettavate questo trionfo, questo distacco, anche questo doppiamento dei voti? Mulè, è davvero incredibile, oltre il 40% il PD. Hai detto bene, davvero incredibile, quindi un risultato che nessuno si aspettava, non l'avevano rilevato gli istituti demoscopici, non l'aveva rilevato lo stesso Renzi, che infatti prima delle elezioni, se si fosse attestato intorno al 30%, già sarebbe stato per lui un successo. Quindi è ovvio, cioè, oggettivamente nessuno poteva aspettarsi il successo che ha avuto, così come oggettivamente nessuno si aspettava che perdesse voti rispetto alle politiche e che non cominciasse la grande rimonta verso Renzi. Insomma, abbiamo tutti ancora freschi nella mente i proclami che aveva fatto soltanto poche ore prima delle elezioni, proclami che oggi dovevano vedere i grillini sotto il Parlamento, il palazzo da espugnare, il Presidente della Repubblica da far dimettere, e Grillo invece, come dire, finisce per quello che è, finisce per essere, purtroppo per lui e per chi l'ha votato, un comico che ha provato a dare una spallata, ma è stato clamorosamente poi smentito anche se al 21% dei voti, cioè nel senso è il secondo partito ancora. Assolutamente sì, ma se consideri quanto ha urlato e quanto ha gridato e quanto ha dovuto alzare l'asticella per raccogliere poi 4 punti in meno rispetto alle scorse elezioni, allora abbiamo plasticamente la dimostrazione che è un tipo di politica che evidentemente non fa breccia a fronte di un risultato che pochi ancora commentano, ma che è drammatico, di un'astensione che è superiore o prossima al 40%. Gli ultimi dati danno il 55,5% di chi ha votato, dunque un italiano su due ha votato, ma il 45% no. Però ecco, bisognerà capire ora che succede. Intanto Adinolfi, la stessa domanda, a capire un successo davvero clamoroso, ora capire anche come gestirlo da parte del Partito Democratico. Cosa cambia? Cambia tutto, perché intanto la gestione non è del Partito Democratico, ma di Matteo Renzi. questo è un voto a Matteo Renzi, come mai si è avuto nella storia repubblicana. C'erano, a parte le elezioni europee, nessuno ha avuto un risultato così incredibile su un solo partito. Matteo Renzi ha la gestione della partita, ha creato, io ho sempre detto che il PD doveva diventare una nuova DC, lui è riuscito a creare l'iper DC, svuotando completamente il consenso dell'area di centro a lui contigua. Ricordiamoci che c'è una scelta civica che sommata a Centro Democratico e fare fermare il declino faceva il 10%, in un anno si è ritrovata allo 0,6%, quindi tutto voto integralmente passato armi e bagagli nella disponibilità di Renzi, che in più ha anche messo al lumicino il risultato del nuovo centrodestra, cioè la forza di centrodestra del governo, i direttori di centrodestra governativi hanno evidentemente preferito votare direttamente Matteo Renzi. Infatti il problema però è questo, non può governare da solo, anche perché ha il 40%, certo, e ha azzerato gli alleati di governo, ha azzerato, insomma, Alfano al 4% e Scelta Civica. In termini parlamentari può ancora esserci qualche difficoltà, ma è evidente che in termini politici, appena uno dovesse dire a me non sta bene, e minuto dopo ci sono le elezioni. Quindi per Renzi ora la tentazione è resistere alla tentazione di andare rapidamente alle elezioni anticipate. Dice di raccogliere un nuovo plebiscito, stando almeno così. Ma è chiaro che se qualcuno ostacolasse il suo percorso riformatore, Renzi avrebbe il gioco facile a dire: non mi fanno fare le riforme italiani, datemi voi la forza per fare. Infatti oggi una prima lettura del Corriere della Sera, Maria Teresa Melli scrive questo, cioè Renzi dice: ora la rottamazione non è che ne parlo, ora la faccio. Ovviamente non parlo di persone, ma parlo di tutto ciò che in Italia non va bene, e sono tante cose, quindi faccio le riforme. Insomma, a questo punto non lo ferma più nessuno, Giorgio Mulè? No, lo ferma il popolo, qualora dovesse accorgersi che le promesse, quello che ha mantenuto, la carne a fuoco, la carne a fuoco che ha messo, poi non è mangiabile, o peggio è indigeribile. Renzi può essere fermato soltanto da se stesso, da questa corsa verso l'annuncio, al quale poi deve corrispondere un fatto reale. A proposito di questo, adesso il problema reale, vero, che si pone è quello di una previsione di crescita di questo paese legato a provvedimenti del governo che non corrisponde alla realtà. Al netto dello 0,1 in negativo del primo trimestre del PIL, ci sono dei dati che a me fanno tremare. Vedevo l'altro giorno un meno 5 della grande distribuzione, che ti dà il termometro dei consumi. Adesso Renzi dovrà toccare con mano che cosa significa non solo fare begli annunci, ma annunciare delle cose negative nei confronti non di una parte dei cosiddetti ricchi italiani, sì, che oramai sono una minoranza sparuta in via di che stanno sparendo, ma nei confronti di tutti gli italiani. Cioè, non dico che ci sarà una manovra correttiva, non lo escludo, dico che certamente non stanno in piedi i numeri che ha dato. E allora, se dopo questa orgia di annunci adesso dobbiamo tornare sul pianeta Terra, ci accorgeremo che tante delle cose che sono state dette non corrispondono. Non dimenticate che da adesso fino alla fine di giugno ci aspettano una serie di scadenze fiscali da far tremare i polsi. C'è tutta la questione della TASI ancora da risolvere, la TARI, le addizionali regionali, insomma adesso comincia il brutto dopo la luna di miele. Tra l'altro scrive un ascoltatore: ha vinto Renzi, non il PD. Insomma, l'analisi che poi ci ha fatto anche Maria Di Nolfi, dice vero anche Giorgio Mulè. Gigi Donelli, c'è una rappresentazione dell'Italia vista anche dall'estero? Ritroviamo il concetto sul Figaro. Poco fa il titolo è Italy, dunque Matteo Renzi vince la sua sfida, e la sua sfida, mette nell'occhiello, è quella di contenere dunque l'ondata di contestazione reincarnata da Beppe Grillo. Per adesso il titolo. Certo, la sfida era questa, Adinolfi, l'abbiamo raccontata in campagna elettorale, la sfida era Renzi verso Grillo. So che gli italiani poi hanno bisogno di semplificazioni, perché poi i temi europei non si sono visti, eccetera, e quindi gli italiani l'hanno percepita così, Renzi contro Grillo, e poi c'era ovviamente Berlusconi, di cui parleremo anche tra poco. Ha stravinto Renzi, e dunque adesso Grillo che fa? Che diceva o vinciamo, me ne vado, che dovrebbe fare a questo punto il Movimento 5 Stelle? Io dico che Grillo ha una grandissima opportunità, perché il 21% non è un risultato da buttare, è un risultato, se è molto significativo, secondo me lì ha avuto un problema di asticella, perché un partito come il Movimento 5 Stelle, che tutti avevamo detto dopo le politiche, un anno in Parlamento, quelli del microchip, quelli delle sirene si squaglieranno, in realtà elettoralmente tiene sostanzialmente, una classica analisi diciamo tradizionale direbbe il Movimento 5 Stelle tiene. Il problema erano le aspettative, ci si aspettava il grandissimo risultato, alcuni cominciavano a parlare di sorpasso sul Partito Democratico, l'hashtag vinciamo noi, che porta una sfiga enorme, mi ricordo Vince Civati, c'era le primarie 8 mesi fa, adesso vinciamo noi, sono autoproclamarsi vincitori prima a quanto sì. pare non hanno buttato un po' oltre l'ostacolo, come dire, la vittoria. L'asticella è molto alta. Se fossero politicamente scaltri, il 21% potrebbe essere molto ben gestito in termini di partita parlamentare. Pensate che scenari si stanno per aprire. Renzi potrebbe essere supportato, cambi di maggioranza. Secondo me si apre a breve anche una questione Presidenza della Repubblica. Il 29 giugno Giorgio Napolitano entra nel 90° anno di età. Sì, e francamente sì. lo scenario con cui Giorgio Napolitano portava Letta a Palazzo Chigi, ve lo ricordate, un anno fa, è come dire lunare rispetto a quello che è il paesaggio terrestre di oggi dopo le elezioni europee. Insomma, è un altro mondo, diciamo che le cose come stanno. Potrebbe aprirsi anche quella partita, il 5 Stelle potrebbe essere decisivo anche per aprire quel tipo di partita lì. Insomma, se se lo giocano politicamente possono fare molto. Sì. Ho paura che non ci siano le condizioni strutturali per cui un partito come il 5 Stelle possa giocarsi politicamente. No, ma perché si diceva è un partito anche non tradizionale, dove per esempio gli elementi del dialogo all'interno del movimento dove sono? Sulla rete non ci il sono. Il Movimento 5 Stelle deve sapersi compromettere, questa è la parola chiave dopo questo risultato. Ma il Movimento 5 Stelle che cos'è? Perché insomma è la rete, è il blog, sono i meetup, sono non c'è una struttura. Un 21% certo, infatti dire che non conta niente assolutamente no, vuol dire che un italiano su 5 di quelli che sono andati a votare ha votato il Movimento 5 Stelle. Ma dopo la pubblicità riprenderemo con Giorgio Mulè, con Mara Di Nolfi, con il nostro Gigi Donelli che mi raccontava, insomma è vissuta così, populismo contro. L'Europa si sta svegliando anche sui media, questo Bloomberg Business Week, stesso tema, Renzi defeat populist, quindi Renzi sconfigge i populisti e i populismi, e in questo articolo in particolare, visto il taglio diciamo business, si cita la possibilità che le riforme ora cambino passo. E a proposito di riforme, invece è stata non una riforma ma una promessa che verrà mantenuta a maggio, gli famosi 80 euro in busta paga. Da qui ripartiremo anche con le vostre telefonate, cari ascoltatori. Quanto hanno inciso secondo voi in termini elettorali questa vicenda degli 80 euro? Hanno inciso oppure no? 24 mattino. Siamo qui alle 8:36 minuti, con noi ci sono il direttore di Panorama Giorgio Mulè, Mario Adinolfi e Gigi Donelli qui in studio. Buongiorno con noi. Ancora. Allora, sentirei anche qualche ascoltatore, perché sono tanti ovviamente a volere commentare, sentire il polso della situazione dei cittadini italiani, che ne pensano. Gianni da Torino, buongiorno Gianni. Buongiorno Milan. Dica. Io sabato ho invitato i miei parenti a pranzo, che l'altra volta ho fatto votare 5 Stelle. E mia mamma ha circa 90 anni, mio zio lo stesso, mia zia lo stesso. Questa volta uno ha votato, due hanno votato PD, un altro ha votato Lega, mio cugino che ha votato 5 Stelle, anche lui non ha più votato 5 Stelle. Un disastro, non ce l'ha fatta. Io la sua influenza sui parenti è minima. Io ho votato 5 Stelle, mia moglie non è andata a votare, non c'è stato verso di portarla a votare. Un dato così che butto lì sul Voglio dire, cosa dobbiamo dedurre da questa storia? Che lei non ha influenza sui suoi parenti, e questo l'abbiamo capito. Questo sicuro. Il passaggio è questo: il fastidio che dà costantemente il blog, l'internet, la rete. Io sono spesso sulla rete e vengo attaccato dai 5 Stelle. Altri 5 Stelle come me, perché non sono d'accordo su ma l'aggressività non l'ha pagato. Però aspetti, la cosa importante è vedere chi sono questi aggressivi. Poi uno va a vedere su Facebook chi sono tutti ragazzi di 20, 22, 23, 24 anni, eccetera. Io ho 57 anni, ho lavorato per 35 anni, continuerò a lavorare per altri 9, sì. Grazie da Fornero. E questi qua mi insultano, me ne dicono di tutti i colori. Dà fastidio, questo dà fastidio, è una cosa, insomma, che dà fastidio. L'aggressività. Vabbè, lei dice Gianni, la ringrazio, così diamo spazio anche agli altri ascoltatori. Non ha pagato, secondo lei, questa aggressività, Gigi? Ti segnalo che in alcuni posti l'aggressività paga molto. Mi viene in mente, abbiamo citato l'Ungheria, Jobbi, 15% il dato definitivo. Qui stiamo parlando, ricordiamo, di sono una formazione di estrema destra. Sì, esplicitamente razzista. Quindi ecco, è tutta una campagna dedicata, in chiave ovviamente anti-Roma, anti-immigrazione, anti-tutto, anti-Bruxelles ovviamente. Chiaro. E lì ha pagato molto. Sentirei Maurizio da Genova, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Io invece volevo constatare che, per assurdo, la Le Pen, in un paese di tradizione socialista, invece ha vinto le elezioni. Sì. Là in Francia, pertanto, hanno fatto un'altra rivoluzione, ma loro sono abituati a farle le rivoluzioni. Alla fine del Settecento ne fecero una della quale si parla ancora oggi. Abbastanza storica, sì. Sì, direi di sì. Diciamo che noi italiani non siamo pronti, e non lo siamo mai stati probabilmente, per rivoluzionare tutto. Abbiamo bisogno di maggiore stabilità, e questo grillo, che io ho votato personalmente, faccio una dichiarazione anche di voto. Anche ieri, sì. L'ho votato anche ieri, perché io, ad esempio, mi piace scompaginare le carte, se un sistema non funziona... Dice, lei dice, in Italia siamo più tradizionalisti, non siamo proprio... Diciamo che siamo molto più... conservatori. Osservatori, non ci lanciamo così allo sbaraglio. No, diciamo conservatore, insomma, dice, o forse no, ha ragione lei, mi perdoni. conservatori. Va bene, Maurizio, la ringrazio. Io vorrei sentire intanto i primi commenti di questi nostri ascoltatori. Continuate a chiamare all'800 24 00 24. Giorgio Mulè, direttore di Panorama, c'è da parlare anche di Silvio Berlusconi. Allora, ben sotto l'asticella del 20%, è una delusione cocente, e soprattutto vuol dire che arriva Marina Berlusconi, come scrive ancora oggi Repubblica? È sicuramente una delusione, perché è inutile negarlo, al 20% ci credevano in pochi, però insomma sul 18% ci avevano fatto la bocca in molti, quindi è sicuramente un risultato penalizzante, che però è lo specchio della situazione in cui versa il centrodestra italiano, in cui versano i moderati, in cui versa ovviamente soprattutto Forza Italia, che è un partito dilaniato, un partito che si è diviso, si è spaccato, si è frantumato, non ha saputo costruire dopo il suo leader, o oltre il suo leader, cioè Silvio Berlusconi, un'alternativa credibile, una classe dirigente che ha pensato più a conquistare posizione all'interno di un partito in disfacimento che a consolidarsi sul territorio, cioè non hanno avuto l'umiltà in molti di andare sul territorio. Il risultato è quello che abbiamo sotto gli occhi, che però costituisce certamente un dato politico innegabile, cioè c'è uno zoccolo duro che oggi vale questo scarso 16%, che è uno zoccolo duro che però è rilevante, cioè se si parte da questa percentuale è ovvio che d'ora in avanti può andare soltanto meglio, ma può andare soltanto meglio a un patto. Il primo punto è che il centrodestra sappia, si possa ricoagulare. Il secondo è che ci sia una leadership nuova, e vedo la seconda parte della domanda. E può essere Marina Berlusconi questa leadership. Che può essere Marina Berlusconi, che possono essere, come dire, altri esponenti del centrodestra. Il centrosinistra vince perché ha l'uomo nuovo, perché Renzi incarna la novità, incarna quella rivoluzione che prima il nostro ascoltatore negava, perché è rivoluzionario all'interno della sinistra, manco rivoluzionario all'interno di un centrodestra. Insomma, come dire, per Silvio Berlusconi basta, mi sembra di capire, cioè nel senso, come leadership, ha portato i voti non abbastanza, ma si deve avere anche il centrodestra la forza di rinnovarsi. Berlusconi in questo è stato secondo me eroico, perché uno che non gioca e riesce pure a segnare dei gol è abbastanza strano. Dopodiché lui stesso ha detto e ripetuto che vorrebbe fare a tutti i costi, ci terrebbe a fare il padre nobile del centrodestra, e non, come dire, il messaggio è chiarissimo: fatevi avanti se avete le capacità e prendetevi la guida del centrodestra. Gigi, cioè, non è Alfano, voglio dire, il leader rivoluzionario, perché uno che se non ha la stampella dell'UDC non arriva a fare il quorum. No, ma a parte esatto, cioè i voti, e poi comunque non è l'uomo, quell'uomo così nuovo, esatto, visto che è stato ministro. Così Gigi, come in fondo non è la donna così nuova, Marine, visto che abbiamo citato Marina. Ritorniamo un attimo su Marine Le Pen. Marine Le Pen non può essere incapsulata in queste, diciamo, novità degli ultimi anni. Il partito del Front Nazionale è in pista da 40 anni. Quello che progressivamente è avvenuto è forse il momento di svolta, quando nel 2011 effettivamente lei prende il testimone dal padre. A quel punto c'è anche l'elemento di novità che sicuramente Le Pen padre non ha, tanto da arrivare anche ad alcune considerazioni un po' bizzarre da parte dei nostri politici. L'altro giorno sentivo Salvini appunto mettere in discussione le ultime uscite di Le Pen padre proprio poco dopo l'accordo firmato anche, sì, in grande pompa, in gran vista a Strasburgo con Marine Le Pen. Insomma, c'è un cambio generazionale in questo caso che funziona comunque su un'ossatura di un partito che ha 40 anni di vita. Io avrei due domande per Maria Dinolfi. La prima è: quanto hanno contato gli 80 euro? La seconda: a questo punto, visto che sono stati cannibalizzati gli alleati di governo, cioè Alfano e soprattutto Scelta Civica, si torna a riparlare di larghe intese, torna in campo l'ipotesi Renzi-Berlusconi? Adinolfi. Tanto Renzi si è allargato, quindi le larghe intese se le fa da solo ormai. Ripeto, io penso che il suo problema sia solo decidere se e quando andare a elezioni. Gli 80 euro sono stati importanti, sicuramente uno strumento all'avvio della campagna elettorale molto potente. Poi si erano un po' appannati, non so insomma se avete presente le ultime settimane della campagna elettorale, anche parlando con le persone, insomma, c'era la retorica un po' grillina che funzionava anche bene, con no all'elemosina, eccetera, eccetera. Poi nella sostanza dei fatti, forse con la busta paga, con gli 80 euro stampigliati, c'è stato meccanismo di marketing, diciamo, al limite del consentito. Renzi è stato molto spregiudicato, diciamoci la verità. Però io sono un giocatore di poker, Renzi ha voluto giocarsi la partita in maniera molto aggressiva, rilanciando sempre, ormai che l'ha vinta, l'ha stravinta. Certo. Fossi Marina Berlusconi starei molto attenta, ecco, diciamo così, all'idea di una Marina Berlusconi contro questo Renzi può farti solo del male. Io penso che il problema della leadership del centrodestra passi attraverso lo stesso meccanismo che ha generato la leadership di Renzi, cioè un grande confronto nel popolo del centrodestra per la selezione di una leadership o di una classe dirigente, mi sembra che sia più complessivo. Sì, ma perché lì i voti alla fine li porta sempre Berlusconi. Tutte le persone che votano centrodestra, cioè provando a convocare primarie, provando a convocare ampi momenti di consultazione, io penso che l'opzione dinastica sia di Berlusconi padre che di Berlusconi figlie sia oggettivamente la meno percorribile, accantonata davanti a un Renzi. Però dopo il traffico, ma lo voglio già salutare, è con noi Daniele Martinelli, blogger, esponente del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Martinelli, buona giornata. Allora, perché insomma rappresenta in questo momento, e lo ringrazio, anche se non è né un esponente né un parlamentare, ma come dire un convintamente sostenitore del Movimento 5 Stelle, rappresenta la faccia, qualcuno dice, della sconfitta. È singolare un po' parlare di sconfitta con il 21,15% dei voti al momento, però di fatto questo è. Dopo il traffico con Giorgio Mulet e Mario Dinolfi, anche Daniele Martinelli tra poco. 24 mattino. Eccoci qua, le 8:48. Allora, dicevamo, il grande sconfitto viene considerato Beppe Grillo. Allora, Daniele Martinelli, che saluto, sì. Eccoci qua, Martinelli. Oggi ho letto un tweet di prima mattina, un tuo tweet. L'Italia, avevano chiesto di scegliere o noi o loro, gli italiani hanno scelto loro. Insomma, il Movimento 5 Stelle continua su questa linea, voglio dire, oltranzista proprio, no? Sì, guarda, devo dire che intanto il dato più importante è che da zero si va a 17 euro parlamentari, e nessun movimento, nessun partito nella storia repubblicana si può permettere questi numeri, o si è potuto permettere questi numeri. Poi non c'è dubbio che il dato delle elezioni è deludente, cioè il movimento, noi, io, ci aspettavamo di più. Io non ti nascondo che pensavo in un 30%, Invece il dato è il 21, però è un 21, direi che sia è un dato definitivo, cioè un dato di uno zoccolo duro certamente importante, che ha fatto una scelta di campo e che ha, intende la politica in un certo modo. È vero che se vogliamo rapportarci alle quattro alle politiche ha perso 4 punti, però insomma Forza Italia ne ha persi 13. Però ecco, cosa fa adesso Beppe Grillo? Perché aveva detto se perdo non ho più voglia, se perdo mi ritiro. Ma non ha, il movimento non ha perso, quindi Grillo non farà niente, andrà avanti. Però l'idea era vincere, vinciamo noi, uno in sì, più. Sì, certo, certo. La speranza, sai, la carica della campagna elettorale è sempre... è sempre molto sentita, però io dubito che si ritirerà Grillo. Che motivo avrebbe di ritirarsi? Lasciare un progetto così importante, il secondo partito italiano mollato così, non credo. Infatti anche a me, forse come diceva Dinolfi, avete messo troppo alta l'asticella, cioè a dire può essere. Avete buttato avanti, come dire, il vinciamo noi come precondizione per fare chissà che, e poi adesso può essere ovviamente la gente dice di qui. E va bene, che dobbiamo fare? So che tu devi andare in una trasmissione, quanti minuti puoi stare con noi? Niente, quanti minuti puoi stare? La risposta è mule, sono così i grillini, dove andare in onda, credo, in un'altra trasmissione. Però cosa ci ha detto Giorgio Mulè? Che Grillo non molla, ecco, questo è forse hanno esagerato, forse si aspettavano di più, però rimane alla leadership del partito. Non Grillo ce lo dirà, perché in realtà oggi, dal momento che si sottrarrà al confronto diretto, manderà catodicamente il suo verbo, insomma, se si ritira non fa una gran figura, No, dovrebbe fare tutto. Ma poi ripeto, c'ha il 21%, sarebbe esatto. Sarebbe veramente stupido, c'ha 5.782.000 esatto. Voti, leggo dal sito del Viminale, cioè esatto. sono un capitale ma enorme, sai, forse, voglio dire. Forse per la prima volta dovrebbe fare un esercizio che ha sempre evitato di fare, che è quello dell'autocritica. Esercitarsi nel pensare dove ha sbagliato, esercitarsi nel pensare quali toni sono stati esagerati o addirittura respingenti nei confronti dell'elettorato, e forse ripartendo da questo, ma dubito che l'uomo che invece eccelle per la capacità della percezione del sé riuscirà a fare. È come dire, un capitale in termini elettorali straordinario, buttarlo via alle ortiche significherebbe tradire la fiducia di chi ha dato quel più di voto. Gigi Donelli, che sì, c'è anche l'aspetto che giustamente sottolineava dei 17 eurodeputati, cioè c'è un debutto assoluto in un europarlamento che abbiamo detto prima, facevamo i titoli, no? La vittoria di due partiti tradizionali conservatori, come nel senso politico storico, come PPE e socialisti, però anche in un europarlamento che avrà sicuramente circa 100-115 deputati in cerca di gruppo parlamentare, insomma ci saranno molti equilibri da scrivere. Il Movimento 5 Stelle rappresenta quasi un gruppo parlamentare, visto che ne porta a casa 17, e anche questo probabilmente sarà una grossa sfida per le prossime questo mesi. Sì, io vorrei sentire un ascoltatore e poi Mario Di Nolfi. Gianluca dalla provincia di Roma. Gianluca, buongiorno. Ah, buongiorno a voi. Buongiorno a tutti, radioascoltatori, a lei. Deve spegnere la radio però, perché c'è un'eco pazzesca. Spenga la radio che ci sentiamo al telefono. Io sarò più breve. Nel senso, volevo dire un concetto solamente. Non ci lamentiamo, cioè il popolo italiano in generale, che sicuramente o non è pronto o fa finta di nulla. Nel senso che il radioascoltatore che ci ha preceduti prima dell'intervallo mi ha detto che sicuramente non siamo pronti a una specie di rivoluzione così come vogliamo intenderla, però non ci lamentiamo più, non voglio sentire gente che dice non ce la faccio, non è così, fa tutto storto, ma perché? Tutto male. Quando principalmente, certo, perché il 45% non è una scelta adulta, matura, consapevole, quando non ci presentiamo alle lei ce l'ha con l'astensionismo. Scusi Gianluca, perché tra l'altro l'audio non è dei migliori. Sì, e c'è da dire, Mario Di Nolfi, partiamo da qui, perché c'è chi mi scrive: basta dire che Renzi ha preso il 40%, ha preso il 40% di chi è andato a votare. Ma certo, ma tutte le volte è dato per scontato, è chiaro che il 40% di chi è andato a votare, mica possiamo sapere di chi non è andato a votare quante percentuali di chi non è andato a votare non è andato a votare. Quindi avrebbe preso il 22% degli italiani, del complesso degli italiani. Ma se uno non va a votare è una scelta, e si fanno i calcoli su chi va a votare. Che dobbiamo fare? Non so, Dinolfi, che dobbiamo... La discussione sull'astensionismo semplicemente è una discussione di lana caprina, non esiste, è una cosa che non... lo facciamo in Italia, ragionando sull'affluenza comunque della maggioranza assoluta del popolo italiano abbondante, quando in tutta Europa hanno votato al 35, al 36, al 37% d'affluenza. Ora voglio dire, è una discussione veramente oziosa. Conta chi vota, punto. Quelli sono i risultati, sono incredibili, sono enormi. Fatemi dire una cosa su Grillo: secondo me Grillo non ha proprio la caratteristica per poter gestire politicamente una sconfitta. Credo soprattutto che Grillo non si può rimproverare per i toni alti, e il Movimento 5 Stelle ha quei voti per i toni alti, non c'è nessun altro motivo, se avesse sommessamente suggerito un cambiamento non sarebbe mai arrivato al 25 e neanche al 21%. Questo sì. La caratteristica del Movimento 5 Stelle è tutti a casa, questo è lo slogan. Prendiamo atto che questo slogan vale tra il 20 e il 25% esatto. dei voti, quindi non potranno mai arrivare al tutti a casa, perché col 20% esattamente questo volevo dire. Grillo, se pensa che di centrare l'obiettivo, oggi ha avuto una risposta: l'obiettivo non lo centra. Poi ci può essere una valutazione giusto, sbagliato, queste sono altre questioni, però il dato è che il Movimento 5 Stelle prende quei voti per quei toni e non per altra maniera, se diventa un partito costituzionale, diciamo così, va al 3%, perché quelli sono i toni del Movimento 5 Stelle. Grillo deve decidere semplicemente se fare una forza ostile al sistema al 21%, che non è poco, però dopo aver detto per tutta la campagna vinciamo noi, vinciamo noi, vinciamo noi, oggi capisco che il posto di Grillo farà fatica a emergere. Eh no, ma è chiaro, emergerà e chissà che cosa dirà. Tra l'altro io devo fare così, ci fermiamo per questa ora, ma come detto andiamo avanti fino alle 9:45 con Gigi Donelli qui in studio per analizzare ancora il dopo voto. Ringrazio per il momento Giorgio Mulè, direttore di Panorama, grazie, buona giornata, così come Mario Dinolfi. Dopo il giornale radio delle 9 riprenderemo. Gigi, ovviamente ci concentreremo sull'Europa, cosa sta succedendo, avremo ospite Stefano Folli, avremo ospite Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, e anche le vostre telefonate. Continuate a telefonare 800 24 00 24. Che ne pensate di questo voto che ha fatto trionfare nei numeri il Partito Democratico, ha visto il Movimento 5 Stelle il secondo partito e Forza Italia il terzo. 24 mattino. Sì, questa è 24 mattino, oggi arriviamo in onda fino alle... Cioè, vedi, appena l'ho detto, Carmelo Lauricella, che saluto in regia, mi ha bruscamente segato la sigla, perché non è abituata a metterla in onda a quest'ora. Andiamo in onda fino alle 9:45, con noi Gigi Donelli, eccoci Gigi. Buongiorno, ovviamente a commentare tutti. Benvenuti queste... agli ultimi arrivati. Certo, i debosciatissimi, quelli io li chiamerei debosciaterrimi, arrivati ora ma sempre ben arrivati. E benvenuti. E commentiamo che cosa? La vittoria del Partito Democratico al 40,81%. Il Movimento 5 Stelle al 21,16, ridiamo le cifre, ormai le conoscete, ma se non le conoscete sono queste: Forza Italia si ferma al 16,82, Lega Nord al 6,16, Nuovo Centrodestra al 4,38 e l'altra Europa con Tsipras al 4,03, le forze che esprimono i europarlamentari. Prima Gigi mi dicevi sull'astensionismo, perché ci dicono l'astensionismo, in realtà in Italia si è votato molto più che in altri paesi. Sì, storicamente, no? L'Italia è un paese di grande partecipazione, quindi in realtà stiamo diventando un po' più nella norma, rimaniamo nella parte alta. Ti segnalo una curiosità: dal 1979 ad oggi è la prima volta in questo 2014 che l'affluenza complessiva aumenta, quindi una grande discesa dal 62% del 79 al 43% spaccato del 2009. Cioè in tutta l'Europa, dici? Questa è la media europea, okay. Naturalmente in un primo tempo era un'Europa a 5, a 8 e così via. Chiaro. Oggi l'Europa a 28, quindi dal 2009, che era un 43%, si è passati al 44% di questo 2014. 44%, insomma, da noi hanno votato la media europea, da noi hanno votato il 55,5% degli italiani, quindi insomma siamo anche ben che sopra è un minimo, la media, nostra volta, che è il minimo, insomma. Però è ben sopra la media europea, quindi non è che dobbiamo sempre buttarci giù. Un ascoltatore mi scrive: ho fatto lo scrutatore, parliamo del fallimento delle preferenze, pochi hanno indicato il nome, molti hanno scritto Renzi Berlusconi. Sapete che, insomma, immagino che queste schede siano state invalidate. Comunque, insieme agli ascoltatori, voglio salutare il vice direttore di Libero, Massimo De Manzoni. Buongiorno Massimo, eccoci. Buongiorno. Allora, si possono fare tante considerazioni su questo voto, tante le abbiamo fatte. Intanto ti chiedo, che succede ora alla tenuta del governo? Per alcuni giornali Le elezioni sarebbero addirittura più vicine anche in Italia. Questo perché? Condividi e soprattutto, se fosse così, perché questa analisi? In effetti c'è una doppia lettura possibile. Una che dice il governo così si è rafforzato perché ovviamente è stato un plebiscito per Renzi, è stato un referendum, ha avuto quella legittimazione che chiedeva e quindi adesso il governo potrebbe andare avanti tranquillo. Mi pare che le reazioni dei mercati, tra l'altro che abbiamo sentito prima, le borse sposino un po' questa soluzione. C'è un altro aspetto un po' più politicistico, se vogliamo, ma questo risultato tende ad affossare abbastanza l'ipotesi dell'Italicum, perché difficilmente con Forza Italia così bassa e con i toni che si sono sentiti negli ultimi tempi tra Forza Italia e NCD e con la Lega che ha avuto il risultato che ha avuto e che quindi difficilmente sarà coalizzabile. Sì. Io non vedo la Lega che si sposa ancora con Forza Italia. Questo nel sì, ma perché l'Italicum, cioè la riforma elettorale, sarebbe a rischio? Perché a questo punto l'Italicum non, a Berlusconi, a Forza Italia non andrebbe più bene. È difficile che si impicchino a una legge elettorale che li vedrebbe tagliati fuori dal ballottaggio. E quindi Forza Italia no. NCD, abbiamo detto, è al 4% e Scelta Civica addirittura è ai decimali. Un passo. Vi ricordate Monti voi? Era l'uomo più potente d'Italia un paio d'anni fa, una roba incredibile. Lo so, se ne parlava prima anche con Gigi Donnelli, succede spesso anche in Europa, no? Ad altri leader europei. Comunque sì, è la politica che macina tutto. No? Sì, sicuramente anche i nuovi strumenti che vengono utilizzati sempre di più. Oggi abbiamo un paio di partiti in Europa come Repubblica Ceca, che sono completamente, cioè sono primi o secondi partiti partendo dal nulla, e questo ovviamente ha molto a che fare anche con l'informatica. Questo sì. Comunque, insomma, De Manzoni, dicevi, quindi il rischio che l'Italicum venga bocciato. E a quel punto bisogna vedere cosa fa Renzi, perché Renzi ha sempre detto che lui voleva fare le riforme. La tentazione di andare all'incasso elettorale anche con il consultellum, ma prendersi un 40% anche senza premi di maggioranza diventa poi una passeggiata fare un governo da quel punto di vista per lui. Con Forza Italia ridotta su queste posizioni, coalizza un po' di partitini e va a governare anche col sistema proporzionale. Allora, quindi questa tentazione potrebbe averla. No, questo sì. Allora, Massimo, io, siccome so che sta facendo una serie di interviste e lo ringrazio per essere con noi, abbiamo avuto la possibilità di collegarci qualche minuto con Matteo Salvini, leader della Lega. Buongiorno Salvini e benvenuto. Buongiorno Alessandro, anzi buonissimo giorno Alessandro. E per lei, ma per lei spero anche per gli italiani che in 1.700.000 matti hanno votato Lega, in 300.000 addirittura hanno scritto Salvini. Però per me è un punto di partenza, non un punto di arrivo, vediamo di meritarcela sta fiducia. Va? Prima qua a fianco c'è anche Gigi Donnelli, mi calcolava in quanti Gigi nell'Europarlamento sono gli euroscettici che sono eletti 100... Allora è chiaro che ci sono ancora qualcuno che dovrà prendere posizione, perché sì, bisogna chiaro. Per esempio dicevamo in particolare il Movimento 5 Stelle, diciamo sui 129, ci 129. Sono dei gruppi chiaramente euroscettici. Siete un settimo dell'Europarlamento, lei si ritrova in questi 129 Salvini a dire... A fare finalmente ci sarà uno posizione a Bruxelles, perché lì i democristiani socialisti che litigano in televisione poi alla fine il 90% delle cose se le votano assieme. Finalmente ci saranno almeno un centinaio di rompiscatole che sull'agricoltura, sul commercio, sui camionisti, sulle infermiere, sui maestri di sci, sul lavoro, porteranno a Bruxelles un'idea diversa. E l'euro, io so che sono sulla radio di Confindustria, quindi è come bestemmiare in chiesa, però l'euro è finito. L'euro è palesemente finito. Addirittura quindi, è finito. Gli do qualche mese di vita, noi stiamo preparando il dopo, ma non è un terremoto, non è un dramma, è una moneta che cambia, non è mai morto nessuno. Come lo state preparando? Ecco, ci faccia capire, perché voi avete fatto la campagna no euro, come lo state preparando? Cioè, quali saranno le mosse? Ci sono una trentina di esperti, non alla Monti, per intenderci, a livello di Europa, quindi a livello di Oxford, a livello di Germania. Il fatto che il movimento anti-euro in Germania, che l'euro dovrebbe baciarlo, abbia preso il 7% dei voti, sta a significare che è evidente a tutti, anche a quelli che ci hanno guadagnato, che si tratta di una moneta sbagliata, della moneta della disoccupazione, di una moneta che impone dei prezzi sbagliati alle nostre imprese, ai nostri artigiani. Quindi ci possono essere due velocità diverse, ci può essere ritorno alle monete nazionali. L'unica cosa certa è che l'euro, così come l'abbiamo conosciuto fino a ieri, è un esperimento finito e fallito. Finito e fallito. Io vorrei, Salvini, non è che sta aprendo all'euro del sud proprio lei? Anche quindi... un euro che mi permetta di essere competitivo per il turismo, per il commercio, per la nostra impresa. O gli artigiani e gli imprenditori brianzoli e trevigiani si sono rimbambiti, oppure sono messi fuori mercato da una moneta sbagliata. Quindi io voglio semplicemente che la moneta aiuti il lavoro, non che la moneta distrugga il lavoro. Io vorrei, nel ringraziarla, Massimo De Manzoni, hai una domanda a Salvini, una considerazione su questo 6,16% finora ottenuto dalla Lega, De Manzoni? Ma è un risultato straordinario per certi versi, pensando come era messa la Lega solo un anno fa. La domanda è quella che sul ragionamento che facevamo prima, ma a questo punto, con questo risultato, è ipotizzabile una Lega che si allei con Forza Italia a eventuali politiche anticipate, oppure, come io penso, la Lega tenderà ad andare da sola? Salvini. Ah, se si votasse presto, no. Berlusconi a Bruxelles sta con la Merkel, e chi sta con la Merkel non sta con la Lega. Però penso e spero che questa batosta enorme di Forza Italia, del nuovo centrodestra e anche degli amici di Fratelli d'Italia, per cui mi spiace veramente, serva a far capire che il centrodestra deve essere centrodestra, non deve essere una stampella della sinistra, fare delle riforme, farlocche con Renzi. Io penso che il matrimonio di Renzi con gli italiani, e giù il cappello perché ha avuto un risultato eccezionale, durerà il tempo del mantenimento delle sue promesse. E quindi io voglio prepararmi al dopo. Sono a disposizione del centrodestra, che spero rinnovato. Ma spero il dopo che non sia un centrodestra arriverà? Dinastico. No, certo, il dopo. Ah, spera, quindi no a Marino Berlusconi. Dopo io quando non arriverà? Guardo in casa altrui. No, no, però... ma certo, ma il dopo quando arriverà? Nel senso, si va a votare secondo lei, Salvini, prima o poi? Prima o poi vuol dire prima, ma prima che probabilmente poi. Renzi qualche cattivo pensiero ce l'ha, perché guardando i numeri dice: vinco da solo, Grillo non c'è più. Cioè non c'è più nelle dimensioni in cui, per carità, il 20%, e averne io il 20%, però sembrava che dovesse essere un testa a testa, mentre invece secondo me è cominciato l'inizio della fine per il Movimento 5 Stelle, quindi Renzi potrebbe essere tentato ad andare a votare. Spero che non lo faccia, perché significherebbe che tutte le promesse con cui ha preso questi voti saltano. Però sapete che in politica le promesse durano poco. Io, a proposito di promesse, però, chiedo agli ascoltatori di andare nei loro comuni a firmare per i nostri referendum, perché voglio cancellare la legge Fornero e voglio regolamentare e tassare la prostituzione. Oh, questa è una delle battaglie che fa la Lega, continua. Fino a quando si può firmare? E abbiamo ancora una decina di giorni e ci mancano poco meno di 100.000 firme. Quindi, siccome abbiamo preso 1.700.000 voti, anche degli ascoltatori di Radio 24 avranno avuto la pazzia di votare Lega. Quindi, se andate nei comuni a firmare, cancelliamo la legge Fornero. Va bene, insomma, questo è la nuova battaglia della Lega. La ringrazio, grazie Matteo Salvini della Lega, segretario della Lega. Gigi, che il dopo è già cominciato, ovviamente, ma è cominciato in tutta Europa. No, io voglio salutare e anche ringraziare Massimo De Manzoni per la pazienza. Sono giorni molto convulsi, so che c'è molto lavoro anche per te. Grazie Massimo per essere stato con noi. E grazie a voi, di Libero, che domani ovviamente sarà in edicola, il lunedì non esce. Dicevamo del dopo, Alessandro, quelli che giustamente sono più preoccupati sono i francesi, e quindi stamattina il primo a scendere in campo è stato Manuel Valls, quello che ormai viene definito il delfino, oggi forse addirittura la speranza o l'ultima spiaggia per alcuni addirittura del Partito Socialista. Lui è primo ministro di fatto da 55 giorni, la botta è tremenda, abbiamo detto uno dei grandi risultati di questa tornata elettorale è la sconfitta pesantissima dei socialisti, che anche in questo caso viene molto personalizzata. Qui si parla di sconfitta di François Hollande e della sua politica, e questa mattina tutte le prime pagine dei media francesi parlano del lungo intervento che appunto Manuel Valls, lo ricordo, non so se lo avete già in mente, 49 anni, papà spagnolo, mamma svizzera, un vero europeo, ecco, e lui oggi va a affrontare l'ondata di questa botta che si è preso il PS. Allora, io vorrei sentire gli ascoltatori, ricordo 800 24 00 24, siamo in diretta fino alle 9.45. intanto saluto il nostro Stefano Folli, buongiorno, perché ci aiuterà a fare delle analisi su quello che succede ora col voto. Sentiamo prima questi due ascoltatori che sono in linea da tempo. Andrea da Roma, buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti. Io dico, fate il funerale al Movimento 5 Stelle col 21%, mi sembra... No, nessuno troppo. Infatti sta facendo il funerale, abbiamo detto che al 21%. Certo, hanno tenuto l'asticella molto alta dicendo vinciamo noi, ora scontano un po', come dire, però io hanno il 21% di voti. Una cosa, il Partito Democratico ha vinto con i voti del centro, lo chiamano partito di centro-sinistra quando Mario Adinossi ha fatto la fotografia di quello che è il Partito Democratico, è la nuova democrazia cristiana, quindi smettetela di chiamare partito di centro-sinistra. Vabbè, finché si chiama... No, Andrea, però finché si chiamano così... Cristiani. Quindi è quello. Vabbè, io Andrea posso essere d'accordo in parte con lei o con Maria Di Rolfi, che è una nuova forma di democrazia cristiana, però si chiama Partito Democratico e quindi questo è. Va bene, grazie Andrea. Andrea Milano da Francesco. Francesco, buongiorno. Ciao Alessandro, ciao. Dica. Allora, il mio intervento è il seguente. A me il risultato di queste elezioni fa un po' paura, perché di fatto, secondo me, ha vinto Berlusconi. Solo che si chiama Matteo e ha 39 anni. A parte la provocazione, sì. La mia impressione è che è emergendo un modello nel quale si votano le promesse, i proclami, le sparate, diciamo, senza guardare ai valori, alla storia di una persona, a cosa questa persona ha creato. Quindi questo modello in queste elezioni ha preso il 60% di voti, cioè Grillo Fioretti. E quello che mi fa paura è che in un modello simile chiunque può emergere, sì, creare una visione del futuro rosea, dorata, che convince il 60% delle persone. Vabbè. Senza che questo possa avere sotto qualcosa di concreto. Allora Francesco, è stato chiaro, a lei mette paura questa, anche perché l'audio non era dei migliori. Partiamo da qui, proprio con questa considerazione che giriamo a Stefano Folli. Folli, ha vinto il Partito Democratico o ha vinto Matteo Renzi? O secondo l'ascoltatore, che poi sarebbe un Silvio Berlusconi rivisitato? Ma ha vinto Renzi naturalmente, questo è un voto molto personale che viene attribuito a una personalità che è riuscita sul piano mediatico, che però oggi avere una forte immagine mediatica vuol dire avere anche una forte immagine politica, è riuscito a convogliare su di sé un voto molto trasversale, un voto che viene da segmenti diversi dello schieramento, e creando una situazione abbastanza nuova per i nostri standard politici, dove il voto è sempre piuttosto rigido, no? Qui si è andati invece verso un grande rimescolamento. Il voto, per esempio, di certi ceti produttivi del nord-est è andato su Renzi in maniera massiccia, quando fino a poco tempo fa c'era una certa diffidenza verso il Partito Democratico e si votava Berlusconi o la Lega. Ricordiamo infatti che nella circoscrizione nord-est il Partito Democratico ha il 43,53%, cioè ben oltre il 41%. Questo è molto significativo, vedi? E naturalmente dipende dalla delusione del partito tradizionale berlusconiano, ma anche dall'idea che Renzi poteva essere, e in effetti è stato così, un antemurale rispetto al dilagare di Grillo. Quindi tutto questo determina un voto molto personale, ma le cui conseguenze politiche sono rilevanti. Ecco, le conseguenze è proprio la seconda domanda, cioè hai sentito Salvini dire in coda d'intervento, secondo me Renzi ha qualche tentazione ora di poter andare al voto. Cerchiamo di capire cosa potrà succedere nel prossimo anno, sulle riforme e sulla possibilità che si vada a votare in Italia, visto questo 40%. Sì, la tentazione è più che possibile, però io credo che questo sia un voto in cui c'è un messaggio di fiducia verso Renzi. Gli italiani hanno avuto fiducia in lui, ma perché non trascini il paese in altre elezioni a tempo ravvicinato, ma perché si metta al lavoro e governi, riforma il paese, lo renda più moderno. Insomma, lui ha promesso tante cose, su queste promesse è stato votato, perché la gente ha visto in lui un elemento di discontinuità, un personaggio credibile e dinamico, però adesso deve realizzare. Se lui fosse tentato veramente di portare il paese alle elezioni anticipate attraverso un pretesto qualsiasi, no? Perché si può sempre trovare un pretesto, Oltretutto adesso abbiamo il semestre italiano, abbiamo una serie di scadenze anche rilevanti. Io credo che lui smarrirebbe questa opportunità che gli è stata data. Lui adesso deve misurarsi con la possibilità e la possibilità e la probabilità che ha di governare questo paese. Ha una maggioranza in Parlamento, ha un grande trasporto, un grande sostegno di opinione pubblica, deve però adesso realizzare quello che aveva promesso nei suoi primi 80 giorni. L'ultima domanda è questa: capire se l'analisi che fa non solo l'ascoltatore, l'ha fatta Maria Dinolfi, in parte anch'io, ma molti lo dicono, è una nuova rivisitazione della Democrazia Cristiana, questo Partito Democratico di Renzi. Che vuol dire e che cosa c'è di vero, se c'è qualcosa di vero in questa analisi? Guarda, l'espressione Democrazia Cristiana è un'espressione che naturalmente suscita interesse e accende polemiche, ma in realtà quello che c'è di vero è che questo è Renzi sta creando un nuovo baricentro del sistema. Questo è quello che sta succedendo. Il partito renziano, non lo chiamo neanche Partito Democratico, ma il partito renziano si sta proponendo come punto di equilibrio del sistema, in cui c'è una forza consistente ma in declino, questo Movimento 5 Stelle, poi vedremo se saranno capaci di riflettere sul voto e di trarne delle conseguenze. Comunque c'ha il 20-21%, è una forza che non è utilizzabile nel governo del paese, e poi c'è questa forza di baricentro che svolge una funzione simile a quella che fu svolta nella prima Repubblica della Democrazia Cristiana. E poi c'è una costellazione di partiti, c'è una destra che sta cercando, che dovrà aprire un cantiere per ritrovarsi, per rinascere, per passare alla fase post-berlusconiana. Ecco, in tutto questo il Partito Democratico diventa il partito asse di un sistema che sta cercando per la prima volta dopo tanti anni un suo equilibrio. Questo credo che sia la cosa che si possa dire. E questo vedremo. Intanto ringraziamo Stefano Folli, grazie per essere stato con noi. Ciao. Gigi, In una piccola chiosa, in un contesto che vede il partito di Renzi e quindi il Partito Democratico Italiano oggi più che mai in una linea di socialdemocrazia europea, non dimentichiamo neanche questo aspetto. Voglio dire, la storia italiana naturalmente è particolare, come in realtà è la storia di ciascuno dei partiti all'interno del proprio paese, ma quello che fa Renzi, per cui molti ascoltatori, molti amici, molti commentatori lamentano lo spostamento del baricentro a destra, è esplicitamente quello che è accaduto in molte socialdemocrazie europee già da una quindicina d'anni. Certo. E da questo punto di vista non è che Renzi stia facendo chissà quale rivoluzione. Ci sono molti che dicono, appunto, la questione dell'euro, l'abbiamo trattata con Salvini, che cosa può succedere, però delle varie forze che sono entrate anti-europeiste, non tutte sono anche anti-euro, la Lega forse è una delle maggiori, addirittura Salvini ci ha detto giro di 6 mesi l'euro. Sì, ha anche detto, pensiamo all'euro del sud, l'ho chiesto apposta, voglio dire, è un tema. È chiaro che quello che è accaduto in questi ultimi mesi, e io lo dico da europeista, deve essere assolutamente positivo per l'Europa, perché l'Europa dormiva su una serie di allori, andavamo a votare stancamente per un meccanismo che non era più partecipato, quindi benvenga la botta. Dopodiché stiamo parlando di circa 140 deputati su 700. La speranza, credo come cittadino, immagino condivisa da molti, è che la scarica elettrica porti davvero a una reazione. Allora, le sezioni pervenute sono 61.547 su 61.592, leggo dal Viminale, quindi siamo proprio alle battute conclusive. Ormai i dati sono questi, li ricordiamo: PD al 40,81%, Movimento 5 Stelle al 21,16%, Forza Italia al 16,82%, Lega Nord al 6,16%, Nuovo Centrodestra UDC al 4,38%, l'altra Europa con Tsipras 4,03%. Rimangono invece fuori dalla soglia del 4% per eleggere eurodeputati, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale si ferma al 3,66% e poi ovviamente tutti gli altri partiti. Colpisce davvero questa vicenda di Scelta Europea e comunque il partito in cui c'era anche Scelta Civica, quindi si dice Monti, no? Lo 0,71%. È vero che la politica macina tanto, però sì, è abbastanza. È anche vero che l'ascoltatore prima citava la Democrazia Cristiana, che da un certo punto di vista potrebbe essere un ottimo auspicio per qualsiasi presidente del Consiglio, visto la storia. È anche vero, di nuovo, che siamo in un mondo diverso da quello, per cui i successi e gli insuccessi si consumano in tempi diversi. Nel frattempo segnalo solo due cose, sempre dall'Europa: è iniziata all'Eliseo la riunione di crisi, abbiamo parlato parecchio della Francia, lì ci sarà da dare molto, credo, l'attenzione nei prossimi giorni. E intanto una nota dalla borsa, che forse hai notato, quindi accelera la borsa di Milano. Anche questi sono segnali che comunque fanno parte della politica. Assolutamente. Allora, dopo la pubblicità, Fabio da Catania, Luciano da Brescia, Luca da Milano, siamo da voi gli ascoltatori fino alle 9.45, siamo qui con questo speciale 24 mattino che è esondato un po' fino alle 9.45, state con noi e poi vi diremo altre cose. 24 mattino. Gli ultimi minuti di questo speciale 24 mattino, fino alle 9.45 siamo qui con Gigi Donelli, è il momento degli ascoltatori, caro Gigi. Allora sentiamo Fabio da Catania, buongiorno Fabio. Sì, buongiorno dottor Milan, senta, io le volevo dire questo, a Catania si usava, quando c'erano, diciamo, le elezioni comunali e tutto, e comprare la gente con buoni di benzina, con pacchi per la spesa. Sì. Adesso tutto è cambiato perché con mass media si possono comprare dei voti allargando il più possibile il messaggio a più persone, perché la gente che ha votato così non mi fa altro che veramente tanta tristezza, perché ha 10 anni che i giornalisti, i mass media, i programmi televisivi ci fanno vedere l'Italia in declino, ci fanno vedere la gente senza dentiere, ci fanno vedere la gente che non può mangiare. Allora a questo punto io non credo più veramente che in Italia ci sia questa voglia di cambiare. E poi ci chiediamo che succede in Inghilterra, che succede in Francia, cambiano le persone, cambia la mentalità. Lei chi ha votato? Posso immaginarlo. Lei ha capito perché ho votato per Grillo. Però non è questo, perché ho votato 20 anni per Berlusconi. Però in me c'era la voglia veramente questa volta di cambiare qualcosa, magari avete ottenuto il 21%, cioè adesso bisogna pensare che la vittoria non è solo ottenere un voto più degli altri, come forse esageratamente Beppe Grillo ha detto, cioè il 21%, cioè sono, ripeto, 5.786.000 persone e 846 dato dal Viminale che hanno votato il Movimento 5 Stelle. Forse Gigi va capitalizzato e sfruttato questo. Sì, molti che hanno anche avuto, che hanno sempre guardato con simpatia al Movimento 5 Stelle, si interrogano su come verranno utilizzati. Esatto, forse quella grossa carenza di utilizzo che in molti hanno osservato. Forse l'idea di dire appunto vinciamo noi tutti a casa è una politica che paga per il 21%, non di più, non 20, 25, 21. Comunque grazie Fabio. Luciano da Brescia, Luciano buongiorno. Sono in linea? Sì. Buongiorno. Secondo me il Movimento 5 Stelle ha fatto un grosso autogol, perché molti come me l'hanno visto come un partito asettico, lontano da quella schifosa baronia politica che caratterizza l'Italia. Però quando è stato citato Berlinguer, lì è spaventato anche gente che normalmente ha votato a centrodestra, come potevo essere io. Il nome Berlinguer mi ha un po' spaventato. Berlinguer la un po' scioccata. Comunque ha fatto l'autogol in che cosa? Anche l'autogol. Perché l'unica congiunzione che ha avuto il Movimento 5 Stelle con la politica non è stato il migliore, non decisamente. E per il resto tutto hanno remato tutti contro il 5 Stelle, perché basta vedere anche gli organi di stampa spaventati di perdere. Di perdere le loro posizioni, del clientelismo italiano. C'è sempre stata un'occasione persa, ma diciamo che questa è una battaglia. C'è stata sempre questa lettura, Luciano. No, la ringrazio. C'è sempre questa lettura. Gigi. Noi siamo rappresentanti di un grumo di potere, sì, evidentemente, che perpetuiamo. E questo, no, naturalmente, lo dico non, in è una un po' ironica, non è una bella impressione. Alessandro, nel frattempo, dato definitivo: affluenza 58,7. Questo è il definitivo del Viminale. È aumentata rispetto ai dati 55 che venivano dati, 58,7, beh, insomma, quindi chi non ha votato è il 41,3, sopra la media europea. Luca da Milano, buongiorno. Buongiorno signori. Dunque, io ho votato Lega. Sì. Mi sentite bene o c'è un ritorno? Sì, bene, dica. Bene, perfetto. Io ho votato Lega dopo molti anni di attesa. Sono stato un allievo di Gianfranco Miglia all'università. Questa volta ho votato Lega perché ho visto due candidati nel nord-ovest, la mia circoscrizione, nel nord-est, che appartengono uno alla Val d'Aosta e l'altro al Sud Tirolo, cioè all'Alto Adige. Sì. Credo che l'onorevole Salvini abbia fatto centro, soprattutto valutando la tipicità di alcune categorie professionali che devono essere protette. Ne cito una per tutte: i maestri di sci, che ricordo ci sono anche sull'Etna in Sicilia. Quindi complimenti a Matteo Salvini per quello che è riuscito a fare. D'ora in poi voterò Lega. Vabbè, insomma, ha fatto. Potevamo tagliarlo per fare uno spot elettorale per la Lega, sì. Ma prima, Marco, adesso semmai sei votato. Comunque, la scusi, Luca, la ringrazio. Vorrei proprio concludere con Marco da Torino. Marco, buongiorno. Ma direi che è molto semplice. Ha vinto il metodo Renzi, a cui Beppe Grillo, che non può contrapporre, è lui come spaventapasseri e la mummia di Casaleggio. Deve lasciare spazio veramente ai ragazzi di 5 Stelle e sono convinto che si esprimeranno molto meglio di lui e esattamente allo stesso livello, anzi con un livello superiore rispetto a Renzi, perché sono molto più credibili rispetto a Renzi. Guarda, la ringrazio Marco, c'è da dire che io attenderò sicuramente, immagino anche tu Gigi, con grandissima curiosità la reazione, proprio la prima reazione che ci sarà di Beppe Grillo, perché appunto stiamo parlando di una sconfitta quando ha ottenuto il 21% dei voti. Sarà interessante capire la prossima strategia del Movimento 5 Stelle, sì, quella proprio urlata, quella o noi o loro, non porterà a nulla. Trovo interessante quest'ultima riflessione dell'ascoltatore che parla, diciamo, delle seconde linee, che naturalmente, questo per carità succede su tutti i partiti, restano un po' in ombra. Da questo punto di vista persino l'egocentrismo renziano ha messo in vista però una seconda linea che oggi conosciamo, certo sono più noti. Effettivamente nel Movimento 5 Stelle questo manca ancora. Che cosa invece, Gigi, ci dobbiamo aspettare di reazione maggiore in Europa? Della Francia abbiamo detto, e lì già in Francia sono, voglio dire, di fronte a questo ciclone Marine Le Pen, stanno già prendendo le contromisure o capire che succede, perché Marine Le Pen dice sciogliamo l'assemblea. L'altro paese o gli altri paesi secondo te sui quali dobbiamo porre maggiore l'attenzione? Beh, ovviamente il Regno Unito, come dire, rinnova un'idea che però, ripeto, è lì da anni e negli ultimi mesi è diventato il cavallo di battaglia di tutti, perché lo ricordo ancora una volta, anche chi ha perso ha assunto posizioni sempre meno filo europee. Naturalmente cosa porterà questo? All'uscita che viene indicata da alcuni leader, da alcuni anche opinionisti, è un'ipotesi da prendere in considerazione. Non a caso ritornare a parlare, come si è fatto in questi giorni, di euro del nord ed euro del sud forse non sarà più un tabù. Insomma, molto anche da vedere nei prossimi in mesi. Europa. Ecco, concludo con questo messaggio: vergognati Milan, dai per spacciato Grillo col 21%. No. Ma ho appena detto il contrario. Vabbè, ma no. Come la fai e la dici, la sbagli. E quindi va bene così. Allora, noi ci fermiamo. Io ringrazio Gigi Donnelli per essere stato con noi. Ringrazio ovviamente Miriam Lucchetti in redazione, insieme a Alessandro Marco Tulli e Elisabetta Fusconi per questo speciale. Domani rientriamo dalle 6.30 alle 9, orario canonico. Ringrazio anche Peter Bescapè in regia, che si è alternato con Carmelo Lauricella. E che dire, ora dopo le informazioni sul traffico ritorna Mix 24 La Storia. Oggi va in onda una puntata dedicata al giuslavorista Marco Biagi, ucciso dalle Brigate Rosse nel 2002. Io mi fermo qui, l'appuntamento a domani alle 6.30, traffico, poi Mix 24 La Storia. Grazie.